Perché sogno d'amore, vivi ancora sul cuscino accanto a me. Ed io non ho le ali per volare veramente insieme a te. Guardi e sei.